Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Ed eccoci nuovamente in diretta alla nostra sigla per guardare la notizia, grazie a Ron Jordan, chitarrista tanto talentuoso quanto sfortunato. Come ogni lunedì apre la nostra rassegna stampa culturale, oggi con tante attinenze, come ho già detto in precedenza, con i magazine. Del resto è il titolo del format del Breakfast Club al lunedì, quindi i magazine di oggi vedono realtà che abbiamo già trattato in ambito artistico. In questo caso mi piace pensare in maniera un po' narcisa che abbiamo anticipato gli argomenti, mentre allo stesso tempo però sono i magazine a dare un faro illuminante ai contenuti che saranno imminenti e che sto organizzando per le rubriche In Scena, In Mostra e Il Voltiamo Pagina. Per cui cominciamo. È un caso? Non è un caso, è una libera scelta. Certo, questa modalità di produzione radiofonica può essere influenzato, viceversa il contenuto magazine inconsapevolmente ne è influenzato, chi lo sa. Tra scienza e filosofia il collegamento è presto fatto grazie a un saggio a pagina 7 del Sole 24 Ore nel suo inserto La Domenica. In tutta la tua vita non decidi mai nulla, libero arbitrio. Robert Sapolsky, uno scienziato di fama mondiale, sostiene che non abbiamo il controllo o la responsabilità di pensieri, azioni, che sono invece determinate da catene causali. Tutto ciò accade che è causato da qualcosa che lo precede e che obbedisce a fisica e biologia. Approfondimento interessante grazie a un saggio, Determinate, a Science of Life Without Free Will. Determinate oscilla tra l'ambizioso obiettivo di cancellare tutti gli argomenti che difendono l'esistenza del libero arbitrio. Una volta per tutte, al trasmettere il senso di fastidio dell'autore per dover scrivere di idee ridicole. Si tratta di un libro in gran parte costruito assemblando pagine di riassunti, commenti di articoli e tesi altrui. La sua è comunque una strategia scientifica. Tracciare ogni anello delle catene causali che culminano nel comportamento a partire da ciò che accade nel cervello negli ultimi millisecondi prima di agire su fino a come il nostro cervello viene assolutamente plasmato dalle prime esperienze e anche prima a livello di neurotrasmettitori e geni. Se qualcuno mi dimostra, osserva Sapolsky, che qualcosa può essere causato da nulla o che un neurone si attiva senza che si possa identificare una causa, allora prenderò in considerazione il libero arbitrio. Beh, filosoficamente è molto interessante tutto ciò, si può cambiare, si può scegliere senza che nulla accada a determinare questa scelta, si dice, no? Ma ho sempre la possibilità di cambiare, certo, ma questo cambiamento scatta in maniera autonoma? È un caso? È influenzato da altro? È l'esperienza? È il percorso di vita? Beh, oppure è un libero arbitrio dettato così in maniera divina che ci porta ideare, all'inventare, allo stravolgere, al ritornare sui nostri passi e tutto quello che può essere considerato un aspetto decisionale. Anche perché per le idee di Sapolsky, invece, in tutta la tua vita non decidi mai nulla, ci pensa quello che è di contorno nella tua esperienza. Questo il contenuto di questo saggio che è in apertura, pagina 7, sulla Domenica del Sole 24 Ore. Ma la risposta è presto ricercata anche grazie a un altro inserto, che è quello della Domenica del Manifesto. Secondo me i due inserti che sto citando sono tra i più interessanti, e facciamo un grande passo indietro e conosceremo, grazie a questo inserto, la sapienza greca, i presocratici, i maestri di vita riletti con Burckhardt, Talete, Anassimandro, Pitagora, Senofane, Eraclito, e fu Aristotele a farli filosofi. Erano, pensate, maghi, medici, portatori di un sapere utile, molti diversi tra di loro, come questa edizione porta alla lettura a cura di Laura Gemelli Marciano ed è in presentazione a pagina 5 su Alias del Manifesto nell'edizione domenicale. Ringrazio Alberto 333-180-9494 che ricorda gli episodi di scaramucce successi in Lunetta e succedevano ai Boglia anche in Piazza Belluno. Sì, esattamente, stiamo citando un po' luoghi chiave della nostra adolescenza. Você è assim, son... Buona giornata a te, grande Alberto. Beijo, penso in você desde o amanhecer. E posso dire tutti i tempi per questo disco Tribalistas con Harold Antunes, curatore dei testi, poeta, Carlinhos Brown, uno dei polistrumentisti più talentuosi brasiliani, e la cantautrice Marisa Monte. Ne è uscito un capolavoro assoluto con la hit Se Senamorar, che se vogliamo è il pezzo più mainstream di tutto questo LP, ma anche gli altri brani sono veramente oltre che incisivi e emotivamente parlando qualcosa che vanno a stuzzicare piacevolmente i nostri sensi, qualcosa di scritto meravigliosamente bene. Anzi, lo lasciamo come base, guarda, senti che bella anche questa. Passo Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas. Passa tutto, passa il tempo, no? E qui i filosofi greci ne hanno fatto veramente approfondimento che arriva fino ai giorni nostri. Il brano precedente, Vecchia infanzia, ci riporta anche con i ricordi sottolineati da Alberto alla nostra infanzia o adolescenza, oramai infanzia è molto lontana. Per quanto riguarda i presocratici, con questo bellissimo articolo che ho trovato, come ho detto, a pagina 5 nell'approfondimento Sapienza greca, i maestri di verità sono stati veramente dei rivoluzionari, sono pensatori anteriori a Socrate, già dal nome presocratici, si sono principalmente occupati del problema della natura e della realtà, quanto c'è di libero arbitrio, poi trasformando questo pensiero ai giorni nostri e nel nostro pensiero. I presocratici sono anche detti presofisti. Beh, sofi è uno degli appellativi, uno dei nomi più belli, l'ho scelto per la mia gatta, anche se adesso è un po' in difficoltà, la tenera età di 20 anni, la saggezza l'ha abbandonata, il fisico no, resta quello di una cucciola piena di vita. Purtroppo la saggezza e la lucidità, a dispetto del suo nome, Sofì, spero che il nome possa illuminarla ancora per un po', causa un Alzheimer felino, è un pochettino, come si dice, andata. Ma tornando al sofismo, ai sofisti, alla capacità poi di dare attenzione all'uomo, al centro dell'universo, pensate quanto erano avanti questi pensatori, come definiti filosofi da Aristotele, tra di loro maghi, medici, portatori di un sapere utile, certo molto diversi tra di loro, perché ovviamente quando si parla di questa realtà c'è anche una diversificazione di sentimento e di disciplina. Frammenti, testimonianze sono rieditati e commentati con particolare attenzione alla geografia, i contatti stretti del mondo ionico con l'Oriente. Sì, beh, il sofismo arriva allo stesso modo, la cultura sufi, insomma ci sono molte attinenze con quello che è il dialogo tra l'antica Grecia e l'Oriente. Global Goon, questo brano, cambiamo completamente versante, abbiamo l'elettronica IDM della Reflex alle 8:08 minuti che ci tiene un po' compagnia, e poi si passa alle attinenze o alla proiezione futura dei magazine, alcune voci a partire da Rubens in Galleria Borghese a Roma. A tra poco.

Marion with Higgins, ancora 2001, qui ancora molto attivo il grandissimo batterista Billy Higgins, insieme al sax tenore di Charles Lloyd, con una formazione incredibile, Larry Grenadier al contrabbasso, Brett Meldau al piano. Finiamo il terzetto, il batterista, qui c'è Billy Higgins, ma al Torrione questo sabato ci sarà Jeff Ballard, che è in terzetto in trio con Brett Meldau e Larry Grenadier. Di solito lo ascolteremo con Alessandro Lanzoni al pianoforte, invece, per il main concert di sabato, per il weekend. Siamo ancora lunedì, però già pensiamo anche all'approfondimento, e ricordo che nel trio di Brett Meldau alla batteria Jeff Ballard, al Torrione. Allora, Rubens nasce nel 1580, sto andando a memoria, per cui so che nasce nella seconda metà del 500, più verso la fine, quindi poi vi dirò la data esatta. Vediamo di quanto ho sbagliato, dico 1580, poi vediamo. Ho arrotondato per decennio. Quindi al massimo della sua espressione nel 1600, e c'è un approfondimento di storia e arte a pagina 6 della Domenica del Sole 24 Ore. Il secolo pervaso dalla malinconia è un saggio di Aurelio Musi dal titolo ovviamente Malinconia barocca, siamo nel 600, esplora il 600 al di fuori delle convenzioni nella sua dimensione più moderna attraverso personaggi che ci parlano ancora oggi, da Filippo IV a Cervantes, da Cartesio e anche da Artemisia Gentileschi. È questo periodo particolare che va a cavallo tra due epoche altrettanto importanti, un po' sottovalutato, se troviamo quest'opera che rientra nella riscoperta del barocco e che tra le linee principali della storiografia italiana degli ultimi anni. Appunto, le epoche importanti in cui vi è questo secolo, questa sorta di sandwich in cui si ritrova tra Rinascimento e Illuminismo. Le attinenze non si fermano qui. Poco fa abbiamo dato approfondimento nella stupenda Serenissima, un'esposizione fotografica per quanto riguarda David Seymour, un fotografo di un talento speciale, polacco naturalizzato americano, il fotografo nella Magnum e finalmente riscoperto da una mostra veneziana a Palazzo Grimani, dove affiora tutta la sua empatia per gli ultimi del nostro paese durante il dopoguerra. Ho pubblicato alcune foto di Seymour, c'è questa classe in una Venezia di terra così isolata e semidistrutta dal dopoguerra, ci sono immagini in bianco e nero che portano lo splendore di una nobile decaduta e in difficoltà, ma che continua a essere stupenda. E intanto, a tale proposito, Marco Minuz è stato ospite per la rubrica In Mostra parlando di David Seymour, e sentiamo come abbiamo concluso questo nostro dialogo. La durata della mostra sarà in esposizione fino al... Chiuderà il 17 di marzo, quindi ci sono ancora circa quasi due mesi per poter vedere questa mostra, ed è una mostra che cerca anche come allestimenti di dialogare appunto con la bellezza di questo spazio, di queste stanze che ci ospitano. Allora, c'è un'immagine che per me è strepitosa, c'è questo distributore di benzina con tanto di marca e logo, come appunto fosse un autogrill ante litteram nel passato, con una barca sullo sfondo mondo che si sta avvicinando. Siamo in laguna ed è un'immagine, secondo me, di una poesia, di una bellezza, quella lì che, scusa questa divagazione, ma ci tenevo a portare anche questo aspetto che nella fotografia di Seymour, che ho, come hai detto tu, ah, questa l'ho già vista, ah no, ma questa mi ricordo, quando poi vai a vedere le immagini, che è anche un'aggiunta di malinconia e poesia controllata che è di una bellezza immensa. La tua descrizione è bellissima, coglie perfettamente la strana combinazione di differenti elementi che animano questa immagine, in cui c'è appunto la nota ironica di vedere un distributore di benzina sul Canal Grande, però al contempo anche questa malinconia di questa Venezia che ormai è evaporata, non c'è più, ed è pienamente, solamente immersa nel grande flusso enorme di turismo internazionale, che è anche un'occasione per riflettere su questa Venezia che abbiamo perso. E allora aggiungo, ringraziandoti, prima potremmo parlare per ore di Palazzo Grimani, che i dogi che hanno portato il taglio di Porto Viro erano di Grimani, quindi un'importanza fondamentale per aver salvato la laguna. Dopodiché la vicinanza con Querini Stampaglia, che adoro, è una sede anche quella espositiva, se fate la gita nella Serenissima, da non perdere. E allora io ti ringrazio per questa conversazione, ci diamo appuntamento a un altro motivo in mostra e ti auguro una buonissima giornata. Grazie anche a voi, è stato un piacere e alla prossima. There's a joker in the pack. There's always a lonely clown. The poor laughing fool falls on his back, and everyone laughs when he's down. There's always a funny man in the game, but he's only funny by mistake. Everyone laughs at him just the same. They don't see his lonely heart break. No, they don't care as long as there is a jester, just a fool, as foolish as he can be. There's always a joker, that's a rule, but fate deals a hand and I see the joker. As long as there is a jester, just a fool, as foolish as he can be. There's always a joker, that's a rule, but fate deals a hand and I see the joker is me. E se abbiamo parlato di anticipazioni in mostra, abbiamo anche le altre rubriche per quanto riguarda invece lo sguardo che gli inserti danno, per questo caso anticipare il Breakfast Club per le rubriche In Scena e Voltiamo Pagina. Allora, per quanto riguarda Voltiamo Pagina, due inserti, tutto libri della stampa e allo stesso modo ampio approfondimento di Robinson su Repubblica per una scrittrice da me amatissima e anche da Silvia Albertazzi, e sono ben contento che lei darà presentazione a Lucy and William, Elizabeth Strout, ultimo lavoro portato in Italia dalla grande Elizabeth Strout, uno sguardo veramente incantato e disincantato allo stesso tempo, una magia continua nella lettura di una scrittrice come definisco io tutti i tempi. Sarà al Voltiamo Pagina, non so se questa settimana o la prossima, ma sarà curata da Silvia. Magari mi intrometto anch'io perché non posso tacere davanti a Elizabeth Strout, cioè. Over you, I want you to want me, I need you so badly. Oggi stesso, qui andiamo a pagina 39 della lettura del Corriere della Sera, grazie alla curatela di Ert, oggi in scena, e poi lo riporterò in anticipo domani nel last minute del martedì, Rosetta Schiava nei campi del sud, una terra aspra, un passato sprofondato, un presente subalterno, protagonista Roberta Lidia De Stefano, che sentirò a breve, da voce a Bologna alle donne sfruttate e abusate nei meridioni, non solo d'Italia. Economia e sesso sono legati al mondo del lavoro femminile. Avremo modo anche in questo caso, dopo questa anticipazione involontaria della lettura del Corriere della Sera, anzi ne siamo assolutamente onorati, di portarla anche in last minute e in scena. Ma non finisce qui. Mi ha scritto durante il weekend Paolo Bolpagni, che abbiamo conosciuto tra Rovigo e Lucca, curatore di un'esposizione per ricordare il grande compositore Puccini, e in questo caso avremo l'approfondimento in mostra. Questo motivo di scambio tra i magazine del Breakfast Club e i magazine inserti allegati ai principali quotidiani usciti durante il weekend, in dialogo tra di loro. Con la musica facciamo un piccolo stacco, rientriamo tra pochissimo perché, come vi ho detto, abbiamo una partecipazione. Mi auguro di tutto cuore di poter contattare, seppur telefonicamente, Chiara Rapaccini, moglie del compianto Mario Monicelli, in occasione del primo premio dedicato alla satira nella giornata di sabato a San Giovanni in Persiceto. È stato un incontro veramente, oltre che di intrattenimento, anche di grande ricordo e soprattutto grande contenuto. Tutto ciò al Breakfast Club su Radio Città Fujiko, Mentira, il Quintetto X, pubblicità, e poi si ritorna in diretta. Buona colazione, a tra poco. We'll be right back.

Pacini è Tutti i tempi. Arrivando al termine di questo lunedì molto ricco, 43 minuti, i nostri magazine in dialogo con il Breakfast Club, e poi arriva anche un last minute con il Voltiamo Pagina. Ricordiamo che oggi alle ore 18 in Sala Borsa riprendono gli incontri con Silvia Albertazzi e Gino Scatasta sulla cultura inglese del Novecento. Quest'anno ci si occupa degli anni 80, si inizia con il romanzo e si procede con un incontro al mese, romanzo, cinema, teatro e musica, fino a maggio. Tutte le indicazioni, perché Verbo Volan, sapete, le troverete sul sito di Sala Borsa, ma ricordo che in Sala Borsa è questa sera alle ore 18. Musica, poi si ritorna per la conclusione, Funkin in Jamaica, il trombettista Tom Brown, tra poco. adesso cominciamo a lavorare. Beh, fino adesso cosa abbiamo fatto? Sì, lo so, però adesso si comincia con la redazione di Radio Città Fujiko. Sperando sia già arrivata Irma, ma ancora non ho sentito zampettare contro la porta. Per cui lascio ben sperare una tranquillità. No, sto scherzando, anzi non sappiamo come iniziare bene la settimana senza la nostra Irma in studio diretta e studio redazione. Quello che di certo è che Alfredo Pasquali è già presente per la rassegna stampa imminente dalle 9:30. Ricordo poi che sarà anticipata da Liberi Dentro e dall'Edipeo Enciclopedico subito dopo la pubblicità. I miei saluti, aggiungo che Caffè e Paglia per lo sport con Mingo and Company dalle 10:30 alle 12:30. L'appuntamento a colazione è domani alle ore 7, un Move to Groove speciale dedicato al lato B. Non è body shaming, non stiamo parlando, anzi sarà contro il body shaming, perché assolutamente quello che è un fondoschiena importante, non inteso come colpo di fortuna, una gran botta di, no, in questo caso la botta di sedere arriva proprio fisicamente per il tagliafuori, per prendere posizione, per occupare più spazio in aria, insomma ne parleremo con Paolo Zanardi, con grande piacere ritorna nei nostri studi, ci sarà anche Pietro Rossi da remoto, Paolo Onofri e tanti ospiti ben messi da questo punto di vista, diciamo così. Quindi tutt'altro che body shaming per quanto riguarda lo speciale sul body shaming al Move to Groove. Vi aspetto domani a colazione alle ore 7. Mi congedo a voi con un caloroso abbraccio, un grazie per l'attenzione. A tutte e a tutti un buon lunedì, una buona settimana. Servo vostro William Piana. A domani, ciao!